Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano con delle persone molto speciali, ossia il presidio di Pavia, che è rappresentato da Giorgio, che sono il referente, Letizia e Andrea. Ok, eccoci. Ciao. E ciao. Volevamo cominciare, quindi il nostro scopo fondamentalmente è farvi delle domande e soprattutto conoscere le realtà che sono simili a noi come presidio, perché comunque sia, credo che sia molto importante. Incominciamo con la prima domanda, ossia, cioè, volevamo chiedervi qual era la situazione locale in termini di mafia, quale attività svolge, com'è infiltrata. Allora, recentemente, proprio un mese fa, è uscito un articolo di un'inchiesta in cui in un grosso centro commerciale della, appena fuori di Pavia, si chiedeva in un negozio il pizzo. E benché questo dovrebbe essere una notizia abbastanza eclatante, non ha fatto tanto rumore, come anche poco rumore ha fatto l'arresto del direttore sanitario dell'ASL di Pavia, Carlo Criaco, e di un noto avvocato tributarista Pino Neri con l'indagine Crimine Infinito nell'estate del 2011. E quindi si vede un po' entrambi i livelli di lavoro o comunque di operatività della mafia, sia un livello più di intermediazione con la politica, in questo caso rappresentato da Criaco, che anche di manovrarsi spicciola. Poi come provincia siamo circondati da azzardo, siamo la provincia capitale, la Las Vegas, cioè veniamo spesso definiti dai giornali, perché qua si spende 3.000 euro pro capite nelle slot machine o comunque nel comparto dell'azzardo. E c'era un clan, il Clan Valle, che tra l'altro era in stretti rapporti con Finia per con scambi di macchinette o comunque intrallarsi per scambiarsi favori, e gestivano un centinaio di locali tra il Dicevano, che è una cittadina a nord della provincia, e si estendevano fino a sud di Milano e nel Milanese. Quindi la realtà delle mafie in provincia è ben radicata. I primi ad arrivare come mafiosi erano stati Cosa Nostra con il Golfino, ma in realtà ad esempio i Valle sono arrivati per sfuggire a una faida che stava venendo a Reggio Calabria. Quindi spesso Bonedere si sente che è il confino che ha portato i mafiosi al nord, ma la nostra provincia ad esempio ha mafiosi sia che si sono insediati per via del confino, ma anche perché c'erano degli interessi. Dicevano proprio, era con i Valle, hanno deciso questa cittadina perché era una grossa città industriale anni 70, anni 70, e quindi è stata un po' la loro sede di elezione. Poi altri episodi eclatanti sono stati i rapimenti di Ravizza, che era il patron di Annabella, e più recentemente quello di Casella, del giovane Casella, rapito in un... lui era uno studente di un istituto commerciale, Bordoni, e nell'88, e è famosa la storia di sua mamma, la mano Coraggio, che è andata in Calabria e dopo un anno e mezzo è riuscito a ottenere la liberazione di sua figlia. Cioè, quindi l'attività della mafia qua in provincia è ben consolidata e si dovrebbe sentire, il problema è quello che si dovrebbe sentire ma non si sente, cioè non c'è ancora molta coscienza su questo. They told me live within your means, kid. I don't know what that means, man. I dream big all day. I got these scenes, so we light the night up like gasoline, turning average into magic like a pocket full of beans. And it seems so simple, but when I turn the windows of my soul out the window, point them on my kinfolk, everywhere these people miss the point like an in-joke. And I first world limbo, got my man smoking in. So I apologize, ain't nothing for keeps within this modern life. Baby, hate the mirror, get a pretty face on modified. And I wish that I could change your love, but ain't nobody plans or stuff. But it's gonna be alright, I'm crystal balling. Don't worry about that shit. Work it out in the morning, get your last call and we coming around. We're doing it up, man. the taxi, got the backseat like a concert. We pile out, talking loud on some nonsense. We took shots for the ones with something heavy on their conscience. Lifestyles are the hip and aimless. Break up tunes and debuts, taking up the playlist. Rap songs from NY, parents say I'm Gen Y, meaning I'm new school. Hell yeah, you dead right. But you can't clay pigeon homie, man, I'm shooting for the stars. Bring truth into these bars, making music from these skies. So you can't put it down, I'm just paying the town. That's why we get high, it makes sense of the ride. So when I show up, I know they don't really get it. Saying grow up, man, I already did it. So we write in this manual one day at a time. We gonna have ourselves one hell of a ride. But it's gonna be alright, I'm crystal balling. Don't worry about that shit. We'll work it out in the morning. Catch you last corner, we coming around. We doing it up, man, we locking it down. Said it's gonna be alright, I'm crystal balling. Don't worry about that shit. We'll work it out in the morning. Catch you last corner, we coming around. We doing it up, man, we locking it down. And all the people say la da da da, la da da, and say la da da da. Say these songs ain't the style no more. But when these kids go wild, man, I ain't so sure. Ciao Andrea. Ciao, ciao Stefano. Senti una cosa, noi scendiamo a Latina tutto il 22 marzo. Volevo chiederti, prima di tutto, che cosa fate il 21 marzo a Pavia? Seconda cosa, perché secondo te è importante scendere? E soprattutto, dato che noi rimaniamo del tempo in più, perché è importante fare della rete tra di noi? Ok, allora, noi come Pavia stiamo organizzando una serie di eventi in direzione verso il 21 marzo. E ieri già abbiamo fatto un reading teatrale con una compagnia teatrale di Firenze su Rossella Casini e sul processo che c'è stato giù in Calabria, che racconta la storia appunto della nostra vittima, o di una delle due vittime mafie, la quale è stato il nostro presidio di Libera Pavia, ovvero Rossella Casini, ma mentre l'altra vittima di mafia, la quale è stata, è Marcella Di Levrano. Poi gli altri eventi che abbiamo organizzato sono il 19 marzo, per esempio ci sarà la Notte dei Poeti, leggeremo delle poesie per le vie della città insieme a un'altra associazione pavese che è leggere.pavia, e il 21 marzo proprio invece faremo una biciclettata lungo i luoghi della mafia e dell'antimafia qui a Pavia insieme a un'altra associazione, Muoviti Pavia, e poi prenderemo tutti insieme il pullman l'11 e il 21 sera direzione Latina. E poi infine, purtroppo per motivi di organizzazione, speravamo potessero raggiungerci prima, invece ci raggiungeranno dopo il 21 marzo, ovvero il 24, ci saranno delle persone di Libera Internazionale che verranno dal Messico, che sono familiari di Desaparecidos, per un happy hour internazionale all'interno del progetto di Mexico per la Paz. E insieme ad esempio anche ad un'altra associazione pavese che si occupa di prodotti del mercato equestridale, e l'insieme di queste associazioni comunque fa capire quanto è importante anche per noi fare rete, perché in questo modo riusciamo a condividere le corresponsabilità, ognuno di noi può apportare in questo modo le proprie conoscenze, le proprie capacità per raggiungere insieme il fine di fare cultura, far crescere le persone, la cittadinanza, i ragazzi nelle scuole e quant'altro. Diciamo, cerchiamo di portare gli impegni di Libera sia noi nel nostro piccolo e di portarli anche attraverso altre associazioni, allargando diciamo, il nostro radar, tutto qua. Infine, ultima domanda. Quando si è costituito il vostro presidio? Ci piacerebbe sapere anche il nome e che tipo di attività svolgete solitamente all'interno del territorio. Allora, la storia del nostro presidio nasce nel 2011, a settembre 2011, dopo che un paio di noi erano andati a fare un campo di Libera, estivo, un campo di estate liberi, e tornando a Pavia a settembre si sono resi conto che nel nostro territorio non esisteva un presidio cittadino. E dato che nella nostra città in realtà ci sono stati molti episodi di indagini e anche di persone accusate per concorso interno in mafia o per reato per associazione mafiosa, abbiamo deciso di costruire questo presidio. Quindi dopo un anno di lavoro sotto il nome di Costruendo Libera, per riuscire quindi a creare la rete su cui poi far nascere il presidio, siamo nati ufficialmente l'8 ottobre 2012 e ci siamo intitolati prima di tutto a Rossella Casini perché è studentessa fiorentina, universitaria, quindi giovane come noi, universitaria e del nord, quindi per uscire dallo stereotipo della mafia al sud. E successivamente abbiamo incontrato alla rete dei familiari lombardi delle vittime di mafia la madre di una ragazza uccisa dalla Sacra Corona Unita, e quindi abbiamo deciso di dare il nostro presidio anche a Marcella di Levrano. Ah, per quindi un doppio nome? Sì, quindi noi abbiamo un doppio nome, esatto. E, per quanto riguarda l'attività che svolgiamo sul territorio, facciamo laboratorio nelle scuole medie e superiori in occasione di determinate festività come, non so, Natale o altre ricorrenze. Organizziamo dei mercatini per sostenere e far conoscere Libera Terra, organizziamo conferenze e come penso sia già stato detto stiamo organizzando appunto delle conferenze e gli incontri per i 100 passi verso il 21 marzo e abbiamo aderito al progetto Dominiamo la Salute. Questo perché molti del nostro presidio, me compresa, sono studenti di medicina o comunque di aree sanitarie come odontoiatria, farmacia, eccetera, e quindi ci siamo riconosciuti in pieno in questo progetto. Abbiamo deciso di aiutarlo a crescere. Infatti a Pavia è stata fatta la prima formazione regionale di tutta Italia per quanto riguarda questo progetto, quindi siamo un po' il progetto pilota, diciamo. Grazie per le interviste, grazie per la vostra testimonianza. E, no, vi ringraziamo perché comunque sia noi riteniamo molto importante fare rete con tutti i mezzi, anche con questi mezzi, dato che abbiamo una trasmissione ancora per quest'anno e speriamo anche per gli anni futuri, e speriamo di vedervi anche voi al 21 marzo a Latina. E volevamo chiedervi se avevate una canzone da lanciare alla fine della trasmissione. Allora, innanzitutto grazie anche a voi, in bocca al lupo per la vostra trasmissione, vi salutiamo tutti come presidio di Pavia. Ciao! Ciao! E niente, vi lancio la canzone, vi lancio Patti Smith con People and the Power. Ok, va bene, ciao! Ciao, ciao! Ciao.